Dopo il semaforo scatenate l'inferno. Prima dentro! Prima dentro! Gas a martello! E andiamo! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Arriva lui sul traguardo, Nico Rosberg, a prendersi la 21esima vittoria in carriera, a vincere per la prima volta il Gran Premio d'Italia nella sua carriera, a rilanciarsi nel mondiale. Meno due da Lewis Hamilton, che affronta adesso la parabolica, sta per arrivare sul traguardo per chiudere questa doppietta Mercedes, e tra poco alziamo volume, sentiamo come verrà accolta la terza posizione per Sebastian Vettel, che transita adesso sul traguardo. Ferrari, abbiamo i migliori tifosi di mondo, grazie, grazie a tutti, grazie per venire, grazie. Volete che parliamo italiano? Siete i migliori del mondo, veramente, incredibile, grazie mille, troppo bello, proviamolo. Oh, 800 24 00 24, la Ferrari resta il pubblico migliore del mondo, e Vettel che prova a parlare italiano, Rosberg che fa cantare la gente di Monza. A proposito, meno male che ci saranno ancora almeno per 3 anni, perché è impensabile fare a meno dello straordinario entusiasmo visto anche oggi sulla pista Brianzola. Alla Ferrari resta questo, adesso vi raccontiamo tutti. A Valentino Rossi resta un bagaglio immenso di classe, di talento. Siamo qui con Carlo Genta e siamo ancora nelle prime battute del Gran Premio di Silverstone. Sì, siamo ancora nelle prime battute perché c'è stato un incidente terrificante, onestamente. Adesso ne stiamo vedendo un altro senza conseguenze, però una scivolata. C'è stato un incidente terrificante all'inizio nelle retrovie del gruppo tra Paul Espargaró e Loris Batz, bruttissimo, molto pericoloso, con i due piloti che hanno attraversato la pista dopo aver lasciato andare via come si deve la moto, moto sfasciate, e sono stati schivati dai piloti che sopraggiungevano dalla clinica mobile. Dicono Paul Espargaró a posto, ma certamente nei prossimi giorni, ma niente di serio, tra poco tornerà ai box, mentre per Loris Batz servirà qualche altra, credo, radiografia per capire come sì, per vedere se è tutto intero. Poi la gara è ripartita, Vignales che sta abbozzando un tentativo di fuga, non è partito benissimo il dottore, ha dormicchiato per 4-5 giri, però poi si è fatto sverniciare, come piace dire a lui, da Crutchlow e da Marquez. Stiamo vedendo finalmente un bel duello spalla a spalla tra Rossi, che è secondo, tutti all'inseguimento di Vignales per il momento scatenato, Rossi e Marquez che sono lì a lottare, con Marquez che ha superato prima Rossi e poi Rossi che ha restituito il favore a Marc Marquez. Sono secondo e terzo, vediamo se anche oggi Marquez correrà da ragioniera al mondiale in pugno, e questo lo sappiamo. Poi Crutchlow, Pedrosa, Iannone, Dovizioso e ottavo Jorge Lorenzo. Non piove, questa per Lorenzo è la buona notizia, quella brutta è che combatte ancora nelle retrovie. Saluto Giorgio Teruzzi, che ringrazio per la pazienza. Buongiorno ragazzi. Beh, insomma, decisamente più divertente quello che stiamo vedendo a Silverstone piuttosto che quello che abbiamo visto epilogo a parte a Monza, dove il Gran Premio di fatto si è risolto alla prima curva con Hamilton che ha sbagliato completamente la partenza, si è trovato sesto, poi pazientemente ha rimontato, Rosberg è andato via, la Ferrari aveva questa strategia diversa sulle gomme, è partita seconda e terza dopo il suicidio di Hamilton, è arrivata terza e quarta, come credo da pronostico. Sì, resta una grande cornice di pubblico, come è stato dai più sottolineato, resta la festa di Monza, senza ovviamente vedendo vincere gli altri. Giorgio. Sì, è abbastanza bello vedere un pubblico che è così contento, con dentro un po' di rassegnazione, perché si sapeva, insomma, con i dati delle prove, ma che proprio succede un miracolo. Però veramente una festa meravigliosa. La conferma, più che la firma, che non c'è ancora stata, peraltro, viene da queste cose qua. Insomma, una bellissima scena. Rosberg non ha perso la testa dalla gioia, insomma molto molto carino, molto divertente il podio finale, la festa finale. Il resto è tutto, tutti hanno fatto la loro parte, tranne Hamilton nessuno ha sbagliato niente. Rosberg ha fatto una bella gara, devo dire che bravo, perché ancora due punti, insomma vorrei vedere un altro al posto di quello lì. Non è semplice tenere in piedi un mondiale così come sta facendo lui, con un compagno che ogni tanto, ieri ha fatto una pole da mago di Oz, non so, da perfetto, con una linea di parabolica meravigliosa. Oggi ha fatto un pasticcio in partenza, ha fatto un pasticcio in gara, poi con la Mercedes arrivi secondo lo stesso, insomma, anziverso. Sì, anche sì. A cercare di mettercela tutta, arrivi secondo, se riesce ad arrivare in fondo. Dicevamo, non ha pagato la strategia della Ferrari. Allora, vi faccio sentire due marchionne post-gara. La prima con un pizzico di delusione, insomma, perché su Monza la Ferrari puntava per provare a risollevare la stagione. Le posso dire che c'era tutta la scuderia che era pronta a vincere oggi. Poi le due Mercedes hanno avuto una gara quasi impeccabile, con l'eccezione della partenza, dove in effetti le due Ferrari sono piazzate bene. Lì ci sperava un po' quando ha visto Hamilton partire male. Sì, detto sì questo, poi bisogna finire la gara. E poi su invece il un po' più realista, insomma, il giudizio sulla gara di Vettel e Raikkonen, nella grande partenza che aveva illuso tutti. I piloti, la partenza è stata brillante comunque. Geniale. La strategia era obbligata, bisogna essere aggressivi. Bisogna essere forse aggressivi, bisogna analizzare se dovevamo cambiare le gomme due volte. Credo che abbiamo fatto la cosa giusta, i ragazzi ovviamente si sono impegnati al massimo, quindi sono contento, siamo di nuovo sul podio, che è importante. C'è rimasto l'unico problema, dobbiamo togliere la Red Bull dalla classifica, questo è un dettaglio. Dettaglio neanche poi tanto. Dopo quella partenza Toto Wolff dal box della Mercedes è sfuggito un scheiße in mondovisione che sì, non ha bisogno di traduzione. Per la partenza di Lewis Hamilton è chiaro che la Ferrari, Giorgio, puntava su questa corsa. Sarebbe un po' come vincere il derby di Roma quando lo scudetto lo vincono gli altri. Non è riuscita nemmeno la vittoria nel derby alla Ferrari. No, però ieri Vettel è stato molto realista e ha detto con questi distacchi in prova non è pensabile parlare di vittoria salvo miracolo, insomma lo sapevano che non ce l'avrebbero fatta, non ce la fai, cioè adesso come adesso non c'è verso, ma in tutte le condizioni. Puoi mettere dietro la Red Bull qualche volta come è successo qui su alcune piste, ma la Mercedes è fuori portata come l'anno scorso, come due anni fa, non c'è verso. Sì, mi sembra che oggi Marchionne abbia usato la carota dopo che ieri aveva usato il bastone, usando per la prima volta il termine fallimentare per descrivere questa stagione della Ferrari. Beh, insomma, sì, rispetto ai loro obiettivi, devo dire, magari lui stesso si è fatto un po' di autocritica non sarebbe stata male. Ma credo che a lui abbiano dato delle informazioni un po' troppo ottimistiche prima dell'inizio del mondiale, cosa che ha portato allora a dire andiamo a vincere. Poi in realtà si è capito subito che vincere è difficile, poi si è capito che vincere è quasi impossibile. E questa qui è una macchina che ha dei limiti di aerodinamici e quando, cioè, dopo un po' che fai lo sviluppo non c'è più verso, insomma lo si capisce, oltre un certo limite non puoi andare. Sì, vi leggo un messaggio che è arrivato 349-238-6666. A proposito, siamo qui in diretta fino alle 19, 800-24-0024, vi aspetto, chiamate, prenotatevi per intervenire, oppure 349-238-6666, sms, whatsapp. C'è un amico che chiede che senso ha avuto fare due soste, se poi la Mercedes ne fa uno significa partire comunque con un handicap di una ventina di secondi. Beh, strategia diversa, quella scelta dalla Ferrari, quasi un rischio calcolato, perché qualcosa dovevi poter fare. Mentre a Silverstone, per la cronaca, c'è sempre Vignales in fuga solitario, un uomo solo al comando, Vignales, la sua Suzuki blu. C'è Valentino Rossi che si tiene dietro Crutchlow, che ha superato Marquez, complice un ondeggiamento dello stesso Marquez, che adesso viene infilato anche da Iannone. stia facendo ancora ragioniero oppure no, ha dei credo limiti che Marquez abbia qualche, qualche problemino perché c'ha la barca che c'ha la moto che sta andando in barca. Sì, la moto che un po' beccheggia. Giorgio, come vedi invece il derby grigio, il derby argento tra Hamilton e Rosberg? Io sarei contento se vincesse Rosberg. Cioè è il solito discorso di tutelare le minoranze, no? Una volta ogni tanto. Cioè, in termini di stoffa non c'è corsa, però in termini di tenacia e anche di dedizione, di concentrazione, niente da dire. Insomma, può anche essere che ce la faccia, nel senso che basta una stupidata, come si è visto, basta una gara storta, basta una toccatina, insomma andando avanti per un altro anno fino alla fine. Fino adesso Rosberg è mancato nei momenti supremi, c'è da sperare che non rifaccia quella scena lì quest'anno. Io spero che vinca, anche per avere un po' di così di cambiamento, di un qualche cosa, insomma. Io questa Formula 1 qua, ecco, oggi è scomparso Verstappen, non avergli dato un bromurato, non so, scomparso. Ha beccato quasi un minuto. Sì, non si sa bene come sia possibile queste cose qua, forse gli hanno fatto veramente la ragione del cervello per almeno per sta corsa. Devo dire, vorrei segnalare la prima risata in via radio a 300 orari di Alonso, che secondo me, ecco, è stato un piccolo momento divertente dentro una domenica peraltro noiosotta. Sì, sì. Grazie Giorgio. Ciao Giorgio. A voi, buon grazie, lavoro ragazzi. Grazie a Giorgio Teruzzi. Attenzione perché c'è Iannone che sta superando Valentino Rossi, siamo a 8 giri dalla conclusione. È riuscito Iannone, scatenatissimo in questa fase di gara, a infilare anche Valentino Rossi, tutti all'inseguimento di un Vignales che sembra imprendibile. Dunque Vignales e poi Rossi, Iannone, Crutchlow, quinto Marquez, poi Pedrosa, Dovizioso. Lorenzo in questo momento è nono in classifica. Ci fermiamo, c'è il traffico. Tanto Rossi cerca di restituire il sorpasso a Iannone. Ci stiamo divertendo almeno in questa gara delle moto. Sorpasso riuscito, traffico. Torniamo e vi raccontiamo tutto. Abbiamo portato... credo il massimo che potevamo portare qui a Monza. Bisogna finire la stagione, bisogna finirla bene. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24. Intanto se le stanno dando di santa ragione a Silverstone. Sì, si stanno suonando di santa ragione mentre Iannone di nuovo supera Rossi che ha Crutchlow alle spalle. È la battaglia per il secondo posto, visto che Vignales è in fuga per la vittoria, sembra onestamente imprendibile. Dietro Crutchlow, che non è riuscito a superare Rossi, che rimane terzo, c'è un Marquez in versione chiaroscuro, insomma, dopo essersi arrampicato fino al secondo posto non sta facendo una grandissima corsa, sono tutti lì in gruppo. Non ci fosse Vignales oggi in versione monstra davanti, sarebbe una delle più belle gare dell'anno. Mentre di nuovo Iannone supera Rossi, ma è inutile fare la cronaca sorpasso per sorpasso perché comunque sono lì tutti attaccati e se ne stanno appunto sportivamente suonando. Dietro Marquez c'è Pedrosa, che però in questo momento non sembra nella possibilità di provare ad attaccare Marquez, e poi leggermente più staccato, ma proprio leggermente più staccata l'altra Ducati, quella di Dovizioso, che in questo momento è fuori da questo trenino che si contende dalla seconda alla sesta posizione, alle spalle di Vignales. Questo per quanto riguarda le MotoGP. Come detto, questo pomeriggio di motori si è aperto invece con il Gran Premio di Monza. Sì. C'ero anch'io. Un saluto sempre pieno di energia. C'era anche l'Apo Elkan. Ho passato la giornata con Marchionne. Un saluto a te Carlo, al contempo stesso all'amico Capuano. Sì, ma ci diamo del tu, no? Voi che siete sempre pieni di matricità sofisticata. New fashion. Ne approfittiamo. Com'è andato questo Gran Premio per la Ferrari? Come sapete, lavorassimo sia sul B2B sia sul B2C, generando sogni, creando sogni. sì. È costruendo sogni. No, ma il Gran Premio, com'è andato? Il Gran Premio per la Ferrari ha vinto. Avrete sì. certamente notato che io avesse sì. ridisegnato la testa rossa. Oh, oh. Ma dopo testa il grande, dopo il grande successo della mia mimetica. Sì. E questo avesse contribuito a portare oggi al successo la Ferrari. Sì, tu stai dicendo i colori. No, lui sta dicendo che ha ridisegnato la Ferrari per il Gran Premio di Monza e Vettel l'ha vinto, che non è vero, tra l'altro, perché ha vinto la Mercedes. Esattamente. Ecco. So che non ha vinto. Ma stravinto. No. Ha stravinto il mio nuovo progetto. La sì. Ferrari aveste bisogno di nuovi energizzatori e per questo abbiamo lavorato sul B2B e al contempo stesso sul B2C. No, ma qualcuno ha capito su cosa stanno lavorando. Cerchiamo di capire. A parte che ha vinto le Mercedes. Facciamo la Ferrari mimetica, metallizzata, come vuole Carlo, sì. Allora, entriamo nel succo della questione. Entriamo. Doveva essere un Gran Premio che valga il prezzo del biglietto che comprino. Allora sì. bisognasse correggere il progetto. Bisognava correggere, con sì. una matericità sofisticata new fashion. Allora io scegliessi il color rosso. Io continuo caco. A non capire niente, rosso ma credo caco. Anche a casa, quindi adesso fa un po' raccogliere. Tu hai capito qualcosa, no? Io assolutamente nulla. Assolutamente. Nulla. Quindi insomma avresti com'è che avresti rifatto questa allora, Ferrari? Che allora, evitiamo i chiproquo. E i Coca-Cola. Avrete notato innanzitutto questo nuovo colore rosso caco. No, così intenso. È quello solito. Pochi hanno notato invece il sedile imbrasato e carta vetrata cashmere. E il spoiler con un range dalla tipologia. La Ferrari è uguale a sempre. Ciao Lapo. E non ha, com'è andata? Un trionfo. Ma non è vero, ha vinto le Mercedes. Torniamo a Silverstone. Abbiamo visto un allora Rossi non sta andando molto forte in questo momento, è stato superato anche da Crascio che ora è terzo alle spalle di Vignales imprendibile di Iannone. C'è stato attenzione, giù una Ducati, giù Iannone. Credo si sia toccato con Kračlov, ruota sì, su ruota. Ora lo rivediamo Iannone che si sdraia di nuovo ed è un peccato che sta facendo una gara meravigliosa Andrea Iannone. Ora rivediamo la dinamica dell'incidente, non si è fatto nulla, sì, moto sì, però sì. danneggiata, appunto non poter essere più utilizzata. 5 giri alla conclusione, duello spalla a spalla veramente tra Rossi e Marquez che ha ripreso un certo passo, adesso sono sempre lì a battagliare per la terza posizione. Attenzione! È andato largo Marquez, si è dovuto rialzare. E ha perso certamente la posizione che aveva alle spalle di Valentino Rossi. Adesso dobbiamo cercare di ricostruire. No, è rientrato in pista subito alle spalle di Valentino Rossi. È andato lungo ad una curva, ha alzato il braccio e poi è rientrato proprio in una fase del duello con Rossi. Ha cercato di passarlo all'esterno, non c'era lo spazio, dunque ha tagliato la curva ed è rientrato alle spalle di Rossi, ma ovviamente la manovra sì, non è per evitare di superare Rossi, altrimenti avrebbe rischiato di incorrere, andando largo e rientrando, rischiava poi di superare Rossi in una penalità. Quindi resta tutto come era prima: Vignales in fuga, Kračlov, Rossi e Marquez che si stanno contendendo la seconda posizione, poi Pedrosa, Dovizioso e Alex Spargarò, e come detto fuori invece Iannone. Intanto Marquez e Rossi stiamo tornando al Gran Premio di Malesia dell'anno scorso. Stanno battagliando per ora totalmente nei confini della regolarità, però carena contro carena, insomma, accidenti. Una bella battaglia. Non credo che però quel taglio di curva verrà insomma bypassato dalla giuria, quel taglio di curva di Marquez. No, anche perché era all'esterno Marquez in quel momento, esatto, e Rossi esatto. ha fatto la sua traiettoria senza lasciargli spazio. Oggi intanto continuiamo a raccontarvela. Oggi inizia anche la corsa per Russia 2018. Che corsa, si comincia tra pochi minuti, avremo subito in campo la Polonia, in Kazakistan, l'Inghilterra e in Slovacchia, in quella che è forse la partita più interessante di questa prima giornata delle qualificazioni mondiali. Questa sera alle 20.45 c'è anche Norvegia-Germania, c'è Repubblica Ceca, Irlanda del Nord, c'è Romania-Montenegro, poi domani lo sappiamo c'è la nostra prima partita in Israele. Saluto Tancredi Palmeri, ciao Tancredi. Ciao Picciotti, buongiorno. Ciao, sperando nel frattempo che Marquez non tiri giù Valentino Rossi mentre parliamo. Sì, vediamo, o viceversa, sta battagliando. Tanto Rossi, Marquez davanti, secondo, Rossi è terzo e dietro di lui Pedrosa, quindi stretto nel sandwich onda. Secondo me si stanno togliendo qualche sassolino dalla scarpa, che gli era rimasto lì da... Allora, se non si devono nemmeno sfiorare, non devono più battagliare per quello che è successo l'anno scorso, allora cambiamo canale, no? È invece un duello molto bello. Devo dire però che Marquez gli ha staccato un po' sulle ruote all'inizio. Anch'io ho avuto la sensazione che insomma, è dall'inizio del campionato che aspettiamo di la resa dei conti, no? Magari la stiamo vedendo oggi in una gara che forse ha poco significato per il mondiale. Se restano su tutti e due. Tanto Krasno per la cronaca è secondo, quindi la battaglia Rossi Marquez è per il terzo posto. Battaglia per il terzo posto. Battaglia invece per le qualificazioni mondiali. Partono in Europa in 55 e arriveranno in 13. E da più parti si sta sottolineando come questa sia, diciamo, un'ingiustizia sportiva. Cioè, costringe l'Europa sostanzialmente a giocare un premondiale di livello che altri continenti non hanno, Tancredi. Sì, in assoluto. Bisogna ricordare che è stato leggermente modificato per Russia 2018 la ripartizione dei posti per le nazionali. La più penalizzata è stata l'Europa, però è anche una penalizzazione più che altro in prospettiva. Io ho fatto uno studio statistico per capire, guardando i risultati degli ultimi tre mondiali, dove sarebbe più giusto e a chi sarebbe più giusto assegnare più posti, e le più penalizzate sono proprio Europa e Sud America. Ovviamente però, come dicono nel Movimento 5 Stelle, uno vale uno, per cui nel momento in cui Blatter doveva farsi rieleggere, ogni voto di ogni nazione valeva uno, per cui quando si è trattato di fare questo ragionamento, dall'Asia, dall'Africa, dove possono portare un sacco di voti rispetto a tutte le altre, rispetto anche a Sud America, che dove sono, adesso non ricordo esattamente, ma forse 12-10 nazioni, ovviamente si è fatto due conti, e per questo motivo sono state favorite i continenti che invece, risultati alla mano negli ultimi mondiali, non se lo sarebbero meritato. Sì, soprattutto Nord America o anche le africane, che aspettiamo sempre esplodere, e la cui esplosione però al momento tarda. Sì, politichese, dai. Sì, politichese. No, ma chi rischia però, al di là del girone dell'Italia, che ovviamente manderà i playoff, speriamo non oltre, perché c'è anche l'Albania che non è scarsissima, però no, insomma, ne manderà una big, una fra Italia e Spagna, la manderà a questo playoff, nel quale conta il ranking di partenza, quindi o noi ci mettiamo in questi due anni a far bene anche le amichevoli, o poi non lamentiamoci se da secondi pescheremo magari un brutto playoff. C'è qualcun altro che rischia tra le big, Tancredi? Prima di tutto l'Olanda, che già viene da aver marcato visita, ed è incredibile visto che era 24 squadre europeo, e si trova nel gruppo con la Francia. Ci sono anche Svezia e Bulgaria, anche se la Svezia ha posto Ibrahimovic, però soprattutto è una Francia solida, che, a cui forse manca il colpo di reni finale, ma paragonata con l'Olanda, che sarà appesa agli infortuni di Robben, vuol dire è molto rischioso. Il Portogallo invece è stato paracadutato un gruppo, non dico semplice, ma più che accessibile, perché trova l'Ungheria, che ha eliminato nella fase a gruppi, e la Svizzera, che si è fermata agli ottavi di finale. Germania, non che te lo dico a fare, la solita Repubblica Ceca. Sei sempre Repubblica Ceca, sempre. Questi fanno il compleanno e chiamano solo Repubblica Ceca, se la giocano. È un po' come il trofeo Berlusconi, sì, dei gironi eliminatori. Germania Repubblica Ceca, Italia Juventus. Li scrivono prima ancora, Germania Repubblica Ceca, li infilano già nel tabellone ancora prima di cominciare il sorteggio. È interessante, anche se mancano quarti di nobiltà, però è interessante il gruppo I, perché ci sono innanzitutto Croazia e Turchia, e quindi due che hanno vari precedenti anche recentissimi agli europei. Poi c'è l'Islanda, che paradossalmente si presenta nel gruppo con quella che ha il migliore risultato recente, e però soprattutto c'è, oltre anche all'Ucraina, altra che era presente agli europei, quindi quattro squadre che c'erano agli europei, c'è anche però il Kosovo, per cui insomma incroci discreti tra partita con la Turchia e quella con la Croazia. Però c'è da dire che più di noi nessuno rischia di più, perché in verità soltanto l'Olanda può piangere, però in verità siamo noi quelli che dovremmo essere tra le 5-6 teste di serie assolute. Sì, sì. L'Olanda è tutto da dimostrare che sia ancora una grande, almeno in questo momento che lo sia. Intanto Marquez ne sta secondo combinando in tutti i colori. Era impegnato Marquez nel duello con Crutchlow per il secondo posto, anche lì bellissimo duello. Di nuovo largo in una curva dopo un tentativo di sorpasso a Crutchlow. E adesso Marquez, che sembra avere una moto molto difficile da guidare, un po' sappiamo il suo stile, ma ondeggia in maniera sospetta quella moto, a due giri dalla fine è anche alle spalle di Pedrosa e quindi quinto, mentre c'è Vinales ormai verso la vittoria, Crutchlow secondo, Rossi che ha un po' rallentato il ritmo e non ci fosse stato questo nuovo terzo largo di Marquez non sarebbe riuscito a riprenderlo, onestamente, diciamoci la verità, adesso si trova terzo. Sì, sì, e siamo nell'ultimo giro, quindi cerchiamo di raccontarvelo prima della pausa, allunghiamo un attimo perché siamo veramente sulle battute finali del Gran Premio di Silverstone. Tancredi, ti chiedo un'ultima valutazione, che è questa: noi siamo usciti dall'Europeo con l'Islanda, il Galles, con grandi sorprese potenziali, valeranno un secondo giro o no? Allora, Islanda e Galles, sì, secondo me, loro due, se parliamo di loro due, il Galles ha una generazione, Bale è nel suo massimo, cioè forse non abbiamo ancora visto il meglio di Bale, potrebbe essere questo l'anno del picco di Bale. L'Islanda arriva da una progressione inesorabile, ha fatto questo europeo che è un esploit pazzesco, però veniva dalle ultime tre qualificazioni dove mano a mano ha aumentato i giri. Può esserci una resacca, come dicono gli spagnoli, una sbronza di ritorno per la gioia nelle prime partite, però il movimento tecnico è quello, non è un geyser nel deserto, per cui giusto il primo paio di mesi gli si può concedere dove devono riconcentrarsi, però secondo me assolutamente, quantomeno ai playoff le ritroviamo, se non addirittura più avanti. Assolutamente, grazie Tancredi. Ciao, a presto. Ciao. Grazie Tancredi Palmieri, siamo alle ultime curve. Vinales verso la vittoria con la sua Suzuki, ha fatto un gran premio in solitaria, manco fosse Fausto Coppi con quei colori. Sta andando a vincere questa corsa con la Suzuki, dietro è successo un po' di tutto, c'è Crutchlow, c'è anche Rossi che sta per attaccare secondo, Crutchlow, ma non ha lo spazio e il tempo, io credo, per attaccarlo. Crutchlow che comunque ha fatto una grande gara. Marquez è quarto per gentile concessione di Pedrosa, che praticamente gli ha ceduto la posizione dopo il grandissimo numero di errori per lui fatti da Marc Marquez. Ed ecco Vinales che va a vincere questo Gran Premio a Silverstone, grandissima gara di Maverick Vinales sulla sua Suzuki. Secondo è Crutchlow, terzo è Rossi, quarto Marquez, quinto Pedrosa, sesto Dovizioso, settimo Espargaró, ottavo il solito grigissimo Lorenzo, nono Petrucci, decimo Bautista. Ricordiamo la caduta. Rossi che prende 7 punti a Marquez, sì, nella classifica mondiale, dopo facciamo i conti, ma dovrebbe essere almeno 46. Stava facendo una grande gara, era seconda e scivolato. Allora, siamo in colpevole ritardo, 800 24 00 24, subito ci fermiamo per il meteo e poi quando torniamo apriamo anche la pagina che parla della nostra nazionale alla vigilia di Israele Italia, ma poi torniamo anche su questo straordinario Gran Premio di Silverstone. Qui altro che ciupiti di Bobo Vieri. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Mi piace il gioco che avventura, è un gioco che piano piano penso che faremo sempre meglio. Ha preso molto anche da Conte per continuare, perché comunque 4 giorni non si può cambiare una squadra, però piano piano stiamo conoscendo al meglio il mister e mi piace la sua maniera di vedere il calcio. Tra poco andiamo a Silverstone per raccontarvi tutto ancora meglio di questo Gran Premio d'Inghilterra vinto da Vinales davanti a Crutchlow, terzo Valentino Rossi, poi Marquez, Pedrosa, Dovizioso, ottavo Lorenzo. La classifica mondiale, ve l'avevo prima accennata, Marquez 204 punti, Rossi 164, quindi 40 lunghezze di distacco da Marquez, mentre Lorenzo comincia a essere staccato, quota 146 punti. Saluto Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao Pierluigi. Poi torniamo a parlare di Silverstone, saluto anche Marco Nosotti. Ciao Marco. Ciao a tutti, ciao. Perché... Ciao Vecchio. Perché ne parlavamo prima, domani insomma scatta anche questa corsa della nostra nazionale verso il Mondiale di Russia 2018. Tanto ti possiamo chiedere il bollettino di giornata, che da quello che ho capito non è particolarmente favorevole per Ventura. Sì, Belotti è due giorni che non lavora, quindi l'ha rimandato a casa. È un problemino alla coscia destra, speriamo che per il capocannoniere del torneo non sia niente di grave, quindi si curerà il club. Poi per il resto sono partiti, mai dovrebbero atterrare, no, c'è ancora tempo, un paio d'ore di volo almeno per Tel Aviv, con un dubbio: chi metto a fare nel 3-5-2 la mezzala sinistra, Bonaventura o Bernardeschi, che aveva annunciato alla sua prima giornata Ventura voler provare mezzala? Chi metto a fare l'esterno sinistra? Via allora, al Toto mezzala sinistra e al Toto esterno sinistro. Voi chi mettereste? Pardo, chi metteresti? Ma chi metterei io conta poco, io metterei in generale Bernardeschi metterei Bonaventura, però credo che Bernardeschi abbia delle possibilità, perché credo che in questo momento poi Noso mi dirà se così possa essere più avanti complessivamente nelle gerarchie, e pur essendo ovviamente adattato in quel ruolo, perché è un giocatore di grande utilità, ma è un giocatore che parte essenzialmente all'esterno, secondo me ha qualche possibilità. Marco? E poi all'esterno se la giocano o De Sciglio o Antonelli, che è stato provato a lungo. In tutto questo Verratti parte, e in questa partita c'è una certezza: Verratti e Montolivo sono alternativi, non sono complementari come nel finale di Italia-Francia. Cioè, quindi io punto c'è il Bernardeschi e De Sciglio. Quindi c'è il ballottaggio, Verratti-Montolivo? No, gioca Verratti. Ah, gioca Verratti, no, perché sarebbe un paradosso che diciamo... No, è la pietra centrale del Paris Saint-Germain. Se un gioco questa, quando gioco? Hai problemi a giocare nella nazionale italiana. Ciao, allora lo mangiano, se lo mangiano Ventura, se lo sbucciano come un fico d'India, ragazzi. No. Verratti non è al 100% come ritmo gara. Lì davanti, con il ritorno anche di Bonucci dietro, lì davanti alla difesa può anche concedersi di essere l'uomo che imposta. Se anche lo marcano, l'alternativa per impostare l'azione ce l'hai con Bonucci. Certo, ma dovrebbe andare così. Dobbiamo aver paura di Israele o no? Perché ho letto versioni discordanti. C'è anche un amico che scrive, dice: Israele è molto cresciuta negli ultimi anni, vale l'Albania, quindi attenzione, potrebbero essere problemi. Chi è che si sbilancia? Pierre oppure Marco? 3-1 contro la Serbia. Guarda, ci sono giocatori che giocano in Europa, che giocano in Belgio, che giocano in Bundesliga. Dai, è 79 nel ranking mondiale. Dovrebbe fare un 4-3-3, che è sempre abbastanza bottonato. Poi è il campo che parla, le motivazioni, la testa, però non dovrebbe darci fastidio, e noi abbiamo bisogno di punti, pur essendo in una condizione non eccezionale. Non hai alternative, Marco, non hai alternative a questa, alla vittoria in Israele, perché sennò parti davvero con un pesantissimo handicap in questa corsa verso il mondiale. Sì, però non abbiamo neanche certezze, Pier, su chi siamo noi esattamente. Bravo. No, noi non abbiamo certezze e arriviamo con qualche, ovviamente, con qualche affanno, perché anche se, come ho detto mille volte, come penso, le amichevoli sono completamente un altro sport nel quale storicamente gli italiani non è che proprio facciano il massimo, però sicuramente Ventura arriva già un po' sotto pressione, comunque la cosa pesa, insomma, c'è già un po' di difficoltà, e bisogna rispettare tutti. Non è una frase fatta, ma oggi, insomma, il calcio di oggi è diverso da quello di 20 anni fa, di 10 anni fa. Oggi veramente San Marino e altre 3-4 sono le squadre in giro per l'Europa con le quali non c'è partita, certo, sempre e comunque. Però differenza è che in questo girone non puoi permetterti distrazioni, e quindi giochi ogni partita con ancora maggiore pressione addosso, perché tu sai che se sbagli ricevi la punizione, ricevi il castigo quasi certamente. Tra l'altro aggiungo, attenzione, perché il meccanismo scarterà i punti con l'ultima in classifica, eventualmente se tu arrivi secondo per andare a formare poi le 8 che vanno a fare i playoff, quindi lasciamo stare il Liechtenstein che presumibilmente arriverà ultimo, e sono questi punti qui che tu ti devi assolutamente assicurare. Volevo chiedere a Marco Nosotti, che ha vissuto a Coverciano, insomma, queste giornate, se ha visto Ventura cambiare dopo quello che abbiamo visto a Bari, che in tanti hanno sottolineato essere forse un Ventura un po' bloccato dall'emozione. Un po' di emozione ci sta. Poi sai, noi abbiamo la lente di ingrandimento contiana, no? per noi un allenatore in questo momento deve avere il ballo di San Vito, cioè deve avere un linguaggio corporeo non verbale particolare. Lui è diverso, però è anche metà del guado, nel senso che parte dal 3-5-2 di Conte con dei giocatori che sono stati con Conte, che facevano cose come aveva detto Conte, e quindi una certa ripetitività, certa azione, la verticalizzazione, l'attacco alla profondità, mentre lui vuole gestire di più. Non a caso ha avuto il maggior possesso palla contro una Francia che era in vacanza. E quindi l'ho visto, sì, attento a quello che deve fare, consapevole che non è ancora né carne né pesce questa squadra, perché lui da un certo punto dovrà stravolgere qualcosa e arrivare a quello che vuole fare lui con gli esterni che gli dà il campionato, il 4-2-4. Il 3-5-2 è una brutta bestia, soprattutto se lo giochi con Verratti, che forse non è proprio il ruolo in cui si trova meglio. Lui l'ho visto molto tirato nella prima giornata, cioè nella prima uscita, però penso che aspetti, dice, portiamo a casa qualcosa di buono adesso, perché ancora siamo indietro di preparazione, come notoriamente sono le squadre italiane. Ci ha fatto 4 allenamenti, gli ho detto alcune cose che si vedono, ma siamo ancora a metà strada. Questa squadra deve essere ancora la squadra all'avventura, cioè nel senso che deve essere di ventura, non all'avventura in senso, ecco, ma avete capito, certo. Perché vorrebbe dire che sarebbe un'armata Brancaleone, che non è. Però è in un brutto momento, è in un bruttissimo momento, perché è difficile, tutto è più pesante e tutto è più difficile. Sì, l'unica certezza, e questo forse è un vantaggio dal punto di vista psicologico, è che tanto deve andare dritto per dritto e cercare di vincere, cioè non ci sono calcoli, non ci saranno nemmeno ad ottobre quando giochiamo con la Spagna a Torino, perché il calendario ci mette subito di fronte alla seconda partita, in realtà già un match chiave, ma tanto ci saranno poche scelte, devi vincere. Grazie Marco Nosotti. Ciao Marco. Vi voglio bene, shalom! Anche noi tutti. Buona partenza, buona partenza. Pensavo questo discorso del 3-5-2 è un discorso che in realtà ci sta, perché in qualche modo Ventura l'aveva già fatto capire ai diretti interessati, ed è un discorso di buon senso, no? Ricominciare da dove si era finito, assolutamente, no? Poi anche di onestà intellettuale e di grande pragmatismo da parte dell'allenatore. Però è un 3-5-2 che si porta dietro delle contraddizioni abbastanza evidenti, nel senso che abbiamo parlato di Berardi, possiamo parlare anche di Insigne. Questo è un tipo di modulo che si adatta certamente alle caratteristiche e ai desiderata del reparto difensivo, che sappiamo che è la principale eccellenza comunque fino a prova contraria del nostro movimento calcistico e della nostra nazionale, ma invece finisce per tagliare fuori altri giocatori e altre risorse che abbiamo. Quindi da questo punto di vista è sicuramente una soluzione così. Verratti, lo sappiamo, non è proprio perfettamente a suo agio in questo tipo di modulo. Berardi, l'ha detto lo stesso CT. Insigne, ripeto, un altro che comunque col 3-5-2 è sicuramente meno a suo agio del 4-3-3. Quindi diciamo che alcuni pezzi di talento che ci sono in giro per questo movimento calcistico italiano con questo tipo di modulo vengono meno fuori. È una scelta assolutamente provvisoria, secondo me, da parte di Ventura, però questo rende ancora più importante questo snodo in Israele, nel senso che penso veramente che sia una soluzione transitoria, ma non si può sbagliare. Non sì, si può sbagliare. Bisogna prendersi a tutti i costi questi 3 punti, cioè inutile stare, Pier, no? a girare tanto intorno anche alle questioni estetiche e tattiche. Servono i 3 punti e via. Siamo un attimo in ritardo, traffico, poi quando torniamo facciamo l'approfondimento sul Gran Premio di Silverstone, ma poi dopo le 18 torniamo ancora a parlare di calcio della nazionale e non solo. 800 24 00 24, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Ancora il testa a testa tra Rossi e Vignales per questa staccata con Vignales che la butta dentro come se non ci fosse un domani. Te ne dai, mamma, che botta! Mamma! Attenzione, rientro! Il rientro della moto, mamma mia, speriamo non si siano fatti niente. Fortuna. Che brutta botta! Fermate la gara. Ci sono troppi detriti. Fermate la gara, mamma mia, subito, che botta! Subito! Ha cominciato così il Gran Premio di Silverstone, il botto fra Pole Espargaró e Loris Bazza, a proposito notizie che sono confortanti per entrambi dalla clinica mobile, è finito con la vittoria di Vignales su Suzuki, poi Crutchlow Valentino Rossi, Marquez, Pedrosa, Dovizioso, Espargaro e Lorenzo per una classifica che vi ripeto ancora: Marquez 204 punti, Valentino Rossi 164, dunque staccato di 40 lunghezze, e poi Jorge Lorenzo 146. A questo punto credo completamente, definitivamente fuori dalla corsa mondiale, forse fuori anche Valentino Rossi. Però oggi abbiamo visto scintille tra Marquez e Rossi. Roberto Ungaro, ciao. Ciao Roby. Ciao. Avevano ciao. No un po' il dente avvelenato? Io sostengo di sì. Carlo dice di no. C'è stata però nei limiti, me, della, sì, nei limiti della totale regolarità di una però moto, secondo di, me di una secondo gara di me, moto ci avevano il nervo scoperto. Roberto. Sì, allora innanzitutto vittoria storica di Suzuki 16 anni dopo, perché è stato Vermeulen ma sul bagnato l'ultima volta. Abbiamo un campione, lo sapevamo che andava forte, Vignales ha confermato, e questo lo sbloccherà il prossimo Yamaha, saranno veramente grandi cose. L'altro argomento è Carl Crutchlow, la vittoria di Bruno non è stato un fuoco di paglia, è vero che qua correva in casa, ma un secondo strappato coi denti, bellissima gara, grandi sorpassi, spettacolo puro, una delle più belle della stagione. Valentino ha lottato come un leone, terzo, l'ultimo gradino del podio. E Marquez ha smesso di fare ragioniere. Abbiamo visto il Marquez che conoscevamo, gli si è proprio chiusa la vena, gli si è staccato il cervello, ha rischiato tanto come fa sempre in prova, e fuori dal podio però ha lottato, niente da dire. Peccato per Iannone, perché non si è accontentato di essere secondo, aveva un distacco di 4 secondi, voleva puntare a Vignales, ha esagerato ed è caduto, ha fatto tutto lui. La Ducati però c'è, perché Dovizioso è finito bene, anche lui nelle provie, assente ingiustificato Lorenzo, ottavo, non è assolutamente un risultato per lui, perché non c'era neanche il bagnato, e la cosa però che ci ha tenuto lì è veramente una gara pazzesca, tanti sorpassi. Tu dici Marquez ha smesso di fare ragioniere, dico si può permettere con 40-50 punti di vantaggio di fare una domenica così. Però cioè, oggi ha fatto fatica. Oggi ne ha fatti tutti i colori. Oggi ha fatto fatica, aveva una moto che anche sul dritto ondeggiava e beccheggiava come un gommone. Una moto da cross. Bravo. Allora, non si può chiedere a uno di diventare un ragioniere di punto in bianco dalla sera alla mattina. Lui ha già fatto tanto come ragioniere fino a quest'anno, però gli è rimasto uno sprazzo, proprio gli si è chiusa la vena, e questa volta ha visto blu, ha visto Valentino, e siamo ritornati all'anno scorso quando c'era quel carena contro carena fra quei due. Era un discorso personale proprio. Io sono convinto che se non fosse stato Valentino forse avrebbe continuato a fare ragioniere, mentre invece lì non ci ha più visto, ha visto rosso anche se era blu, e alla fine ha fatto continui errori, e quindi abbiamo visto comunque dei sorpassi, delle cose, è vero, al limite della regolarità, molto duri, però non c'è stata irregolarità. Quando è uscito comunque ha mollato la manetta, è rientrato nella stessa posizione alzando la mano, cioè non c'è stata nessuna furbizia, nessuna irregolarità da parte di nessuno. Grandissima gara, uno spettacolo del genere è quello che vogliamo vedere noi delle due ruote, e speriamo che a Misano tra 7 giorni sia altrettanto. Sì, però io la butto lì, quindi esiste una breccia nel muro psicologico di Marquez? È attaccabile ancora Marquez? Perché insomma, noi l'abbiamo applaudito per una stagione dicendo fa ragioniere, è cresciuto, è perfetto, è maturato, così è imbattibile. Oggi sinceramente ha rischiato di andare per terra. Sì, esiste, e compromettere tutto. Hai ragione Giovanni, esiste quello spiraglio, e secondo me è l'unica fessura su cui può lavorare Valentino, cioè a livello psicologico può arrivare lì a colpirlo sui fianchi, perché se si tratta di manetta, di tempo e di conduzione di gara, ragazzi, quello che abbiamo visto fare oggi a Marquez è dura, cioè se a fine stagione si vincerà il mondiale non gli si può dire niente, se l'è conquistato, se l'è meritato. Vedere però Valentino ancora battagliare così è strepitoso. E poi le nuove generazioni, perché Vignales lo vedremo spesso, magari anche fino entro la fine della stagione, ma l'anno prossimo con la Yamaha, cioè, abbiamo un nuovo campione, lo sapevamo che andava forte, ma quando ha fatto corsa da solo, oggi praticamente, ragazzi, l'ho detto prima, sembrava Coppi sullo stadio, un uomo davanti, solo al comando. Un uomo solo al comando così lo fa, se è un uomo, se è un campione maturo, se ha strategia, se ha tutto. Una prima vittoria così è rara, è difficile che avvenga così. Da campione maturato, da campione, voglio dire, dall'esperienza anche una gara del genere. Invece lui, il suo esordio, il rookie della vittoria, l'ha compiuta così. Quindi si vede che c'è la stoffa del campione. Ha visto lungo Yamaha a prenderselo con largo anticipo sulla stagione. Speriamo che Iannone lo rimpiazzi in modo egregio. La moto c'è, quello l'abbiamo visto, lo sapevamo, oggi è arrivata la conferma. 7 diversi vincitori nelle ultime 7 gare. Ragazzi, questo è il moto mondiale, è lo spettacolo che ci sta offrendo. Nuove regole, nuove gomme, tutto quello che vogliamo, elettronica limitata, però è sempre bello quando l'equilibrio è precario. È anche qualcosa a cui ci eravamo un po' disabituati, diciamo la verità, Roberto. Sì. Quest'anno invece stiamo trovando un tesoro dentro un mondiale che ci sta raccontando tantissime da storie. Cui si è chiamato fuori Jorge Lorenzo in maniera fragorosa, in maniera totale. Non c'era neanche la pioggia, anche imbarazzante, Roberto. Perché non c'era acqua, c'è stata ieri nelle qualifiche, ma oggi era asciutto, oggi doveva combattere, doveva essere lì come tutti gli altri, non ci sono state scelte sbagliate di gomme, cioè oggi anche se Ducati aveva le morbide, gli altri le dure, però non c'è stata questa grande differenza, abbiamo visto il valore reale della manetta e del pelo, del coraggio di saper guidare, di saper recuperare, incrociare le traiettorie. Oggi devo dire che è stato lo stato dell'arte del moto mondiale delle due ruote, questo è il motociclismo. A domani, Roby, grazie. A te, ciao, un saluto a tutti. E Lorenzo oggi è rimasto fuori da tutto questo. Partiva dietro, ma la gara gli ha dato certamente la possibilità di tentare un recupero, invece è rimasto fuori. Se avete piacere, vi racconto questa cavalcata trionfale. No, non abbiamo piacere. Però. Della Ferrari, sì. Rosso Caco, dalla matericità sofisticata. Però non ha vinto. Carlo, questo concetto B2B, al contempo stesso pieno di energia B2C. Ma qualcuno C2B. Può dirlo all'Apo Elkan che oggi la Ferrari non ha vinto? Adesso noi generiamo sogni. Perché non la ridisegni argento come la Mercedes? Costruire casomai mimetica, una Rosso Caco mimetica. Torniamo subito, 800 24 00 24, c'è anche Luigi Pardo, dopo il GR delle 18. Yeah. Tra poco, nuove notizie, a più tardi. Pigia il coso rosso, grazie. Tutti convocati. Convocati. Beh, certamente la squadra sarà essere rinforzata, gli ultimi acquisti sono stati molto importanti, anche gli altri che ha fatto durante l'estate. Per l'allenatore certo non è una cosa facile perché è arrivato un giorno prima che iniziasse il campionato, quindi pretendere molto in questo momento sinceramente non si può capire qual è l'impatto dell'allenatore con la squadra. È tornato a parlare Moratti, l'avete sentito, 800 24 00 24, carissimo Luigi Pardo. Però ti faccio sentire, Pier, ci sei? Sì. Eccoci, ti faccio sentire quell'altra cosa che io non ho capito, se è una provocazione da Moratti tifoso o se ci crede davvero. L'ha detta ieri ai colleghi di Radio DJ. Ma obiettivamente speri sempre, nessuno se non andrebbe più allo stadio, speri sempre che ci sia un fattore sorpresa, come c'è stato in Inghilterra, perché è un fenomeno un po' speciale. Ma no, io credo che sia una passeggiata per la Juventus. D'accordo. Insomma, Moratti dice che lo scudetto della Juve di quest'anno è una passeggiata. Cosa deve dire? Anche solo per tirarglielo un pochettino, questo è Massimo Moratti che evidentemente sentiva. E comunque sente e sentirà la nostalgia dei riflettori, Pierluigi. Ma secondo te gliela sta tirando o è una valutazione oggettiva? Ma no, secondo me è abbastanza oggettiva, e poi sicuramente ci sarà anche un retrogusto, un 10% di scaramanzia, ma non è che abbia detto una cosa così rivoluzionaria. No, però detto da Moratti, diciamo, fa un po' effetto, dai. Sì, perché noi siamo abituati a considerare Moratti come un presidente, come un proprietario di una società di calcio, e quindi, diciamo, passeggiata è una parola un po' strana, no? Ma non ho capito, ma ha paragonato l'Inter all'Ester? E ha paragonato l'Inter o chiunque altro in Serie A all'Ester. O chiunque altro, cioè non solo l'Inter. Sì, io penso che l'Ester sia unico, nel senso che l'Ester, l'abbiamo detto mille volte in questi mesi, è una cosa che è successa once in a lifetime, direbbero gli inglesi, una volta nello spazio di una vita, ed è, insomma, ripeto, è come se l'Atalanta vincesse il campionato, con tutto rispetto per l'Atalanta, o il Chievo vincesse il campionato, o se volete la Samp, se volete fare un pezzettino, una roba così, il Genoa che vince il campionato. Quindi stiamo parlando di una cosa che francamente è al di fuori di qualsiasi possibile ragionamento. L'Inter, diciamo, fatto il paragone col campionato inglese scorso, è il Tottenham, è una squadra, diciamo, da quarto, quinto posto, magari terzo posto, e quindi non è il Leicester. Il Leicester è stata una cosa irripetibile che che rende ancora di più merito, della quale bisogna rendere ancora di più merito Claudio Ranieri, perché veramente è stato un qualcosa di pazzesco, che è arrivato anche a fronte di un fallimento congiunto delle 5-6 squadre che erano nettamente superiori sulla carta. Tanto c'è, quindi, il primo gol europeo nelle qualificazioni a Russia 2018 e l'ha segnato dopo 8 minuti la Polonia in Kazakistan. Credo sia stato realizzato da Kapuchka, quindi è il primo gol della grande corsa che ci accompagnerà per un anno e mezzo verso il Mondiale del 2018. Prego Pier, scusami. No, no, intriga il discorso sull'Inter, a me intriga il discorso sull'Inter, anche perché... A me intriga questa resa assoluta, totale alla Juve. Non è una resa, è chiaro che la Juventus parte con un giro di vantaggio sugli altri, secondo me, secondo Pierluigi un po' di meno, però la verità è questa. Poi l'Inter è partita con l'handicap di aver cambiato allenatore, della vicenda che conosciamo, ed è partita male nei primi due trailer del campionato. Sì, che rischiano anche di pesare poi in classifica, perché è vero che il calcio d'agosto tradisce, però è visto anche che vero che fa classifica. Sì. Fermati, visto che continuate a rompermi le scatole e a farmi le domande, no, io vi dico che ora come ora io in Italia non ci torno. Mario Balotelli, però nessuno ti abbiamo chiamato. Mario Balotelli è andato al Nizza. È una mia decisione calcistica, dovete rispettarla. E sì. Quindi io non voglio dirvi, ma se proprio volete. Ma noi, non vogliamo. Se proprio volete, vi parlo del Nizza. No, se volete, vi parlo del Pier, ti interessa il Nizza? No, no, no, Mario, grazie, ciao. Ciao. Pardo, tu mi cerchi sempre, mi rompete le scatole. Adesso, se volete, vi racconto tutto. Ma io in Italia non ci torno. È inutile che insisti. Ma è vicino a Nizza, Mario. Pardo, io non torno in Italia. Te l'ho già detto, non torno. Mezzo... È inutile che insistete. Neanche continuate a dire queste cose. Non mi interessa, io non torno in Italia. Nessuno sta dicendo che torni in Italia, nessuno ti ha chiamato. Siete scarsi, siete solo bravi. Ci vediamo a Mentone? Siete bravi? Ci vediamo a Mentone? Mentone, ma tu sei fuori come un coperchio, come un balcone. Come un gommone. Vabbè, insomma, nostro Mario Balotelli, ma noi non l'abbiamo chiamato, non lo vogliamo. Ma siete voi che mi chiamate sempre. Ma non è vero, non è vero. Pardo che è sempre lì col cellulare a rompere le scatole. Aspetta. Ma tu lo sai, Pardo? Pier, gli stai mandando i messaggini, no? Sì, che manda. Lo inviti a Tikitaka, no? Sai che mi hai dato un'idea. E mi manda anche le faccine con i sorrisini, con le cosettine. Il livello fra un quarto d'ora si troverà il messaggino, non mi risponderà, però insomma. Ci si può sempre parlare. No, vi voglio far sentire, a proposito di resa o non resa degli altri, anche la voce di Spalletti, che ieri ha parlato dopo l'amichevole con il San Lorenzo, e che insomma ha parlato della rosa che lo soddisfa. Secondo me, anche insomma, cercando un po' di rivitalizzare l'ambiente. Spalletti sulla rosa della Roma. Sono soddisfatto. È chiaro che si tenta sempre di creare sempre delle aspettative, si va sempre a tentare di avere di più, però la società ha fatto quello che era possibile fare. Io sono a posto con questa rosa che ho a disposizione. E poi ti faccio sentire anche Totti, Totti che invece ci crede. Può mica credere di più. Ma insomma. Ma è normale che alla fine si possono dire tante cose, soprattutto a fine mercato, però poi quello che conta è il campo. Noi dobbiamo cercare di stare più vicino alla Juve, anche se sappiamo che non è semplice, però cercheremo di darle filo alla torcia. Chiaro, Spalletti non può chiedere. Sì, ma io non ricordo un inizio di stagione così depresso dagli altri, per gli altri come questo. Sì, è vero. Ma la Roma ha preso una trambata dalla quale dura rialzarsi. Sì, sì. Anche, La Roma ha preso una trambata. Moratti, tra l'altro, adesso ovviamente non ha più un ruolo ufficiale come poteva averlo qualche anno fa, e quindi è un po' più il discorso, diciamo, da bar sembra offensivo, in realtà io grande rispetto per i bar, ma più il discorso da esterno, da grande nobile tifoso nell'azzurro che ha rappresentato così tanto nella storia di questo club, però un po' più libero di poter parlare in maniera assolutamente sincera. Ma fa opinione presso l'interismo. Ma certo fa opinione, e credo che insomma questo sia stato anche negli ultimi anni un po' uno dei problemi, no? Nel senso che Moratti legittimamente dice la sua, e in qualche momento, quando ancora aveva una quota importante nel pacchetto societario, diceva delle cose legittimamente, ripeto, e con il carisma che ha, con quello che rappresenta, nel Pantheon nerazzurro in qualche circostanza ha rischiato anche di alimentare, non in maniera volontaria, però dei piccoli cortocircuiti, perché insomma è ovvio che il suo parere fa opinione, faccia opinione, e lo fa ancora, la fa ancora opinione, anche se chiaramente adesso è fuori dai giri ufficiali. Detto questo, la sostanza oggettiva è quella, cioè veniamo da 5 anni nei quali la stessa squadra ha vinto i campionati. Questa squadra quest'anno ha comprato il miglior giocatore del Napoli, uno dei migliori giocatori della Roma, diciamo sul podio dei 3 migliori giocatori della Roma, decidete voi la gerarchia, ha comprato dei giocatori di livello e di fama internazionale, probabilmente non è riuscita a fare proprio, diciamo, a far quadrare al 100%. Gli è mancata la ciliegina. Sì, è mancata la ciliegina. Tra l'altro Matuidi l'ha messo, ha detto: io avrei voluto la Juve, l'offerta era concreta, ma è stato il Paris Saint Germain che mi ha blindato e non ha accettato, però quella roba lì è mancata. C'è questa ciliegina, diciamo che se però non succederanno cose clamorose di sfiga, secondo me rimarrà una ciliegina, nel senso che per esempio manca il quarto attaccante, però è vero pure che tu puoi giocare con, per esempio, con Piazza e con Cuadrado esterni alti, puoi giocare a 3 davanti con una sola punta centrale, in mezzo al campo sicuramente. Ma che la Juve è fortissima l'abbiamo capito. A me incuriosisce che Massimo Moratti, dopo la seconda estate consecutiva in cui l'Inter fa un mercato, insomma, mettendo lì tanti soldi, quest'anno ha speso 100 milioni di euro, sostanzialmente si presenti e dica: basta, quest'anno facciamo un altro sport rispetto alla Juve, noi speriamo di arrivare terzi, la Juve farà una passeggiata. A me incuriosisce, avendo conosciuto Moratti per qualche anno, abbastanza comprensibile, dai, come basso profilo, secondo me. Insomma, io l'ho visto usare altri profili e altri profili anche in stagioni in cui oggettivamente doveva fare come Marchionne, la Ferrari vince il mondiale e poi fa 0 vittorie. Però a me incuriosisce. 800 24 00 24, e benvenga chi invece lancia la sfida, poi adesso ne parliamo. Traffico, torniamo subito. Ci siamo incasinati e ho sbagliato, mi sono trovato nel traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. La Juventus è una squadra che per migliorarla ci sono pochi giocatori in Europa. Ora è chiaro che noi puntiamo a elementi giovani e puntiamo sempre al top del top, al top del top. La Juventus ha fatto un ottimo mercato perché sono arrivati 5 giocatori nuovi e di grande valore, che hanno aumentato il livello tecnico, come ho detto prima, di questa squadra. Ma quanto ci siamo rapportati al centrocampo? Beh, tre centrocampisti nuovi, forse ricordiamo. Siamo la squadra europea che si è rapportata di più in prospettiva, perché è chiaro che con un maestro come Sarri il materiale umano che gli è stato messo a disposizione è un materiale esplosivo. Poi magari fra un paio di mesi sbeffeggeremo De Laurentiis, ma io preferisco De Laurentiis. Almeno non che dice: oh, ma quanto ci siamo rinforzati! Quanto siamo belli, quanto siamo belli, forti, esplosivi. Piuttosto che Moratti, che dice: boh, io vuoi fare una passeggiata. Beh, hanno due ruoli diversi, sì, e due realtà anche diverse, anche se poi l'Inter è cresciuta sicuramente, ma è cresciuta su una base che è una base da quarto posto. Quindi io penso che l'Inter abbia fatto delle cose importanti, ma insomma la distanza di partenza sia molta, e soprattutto ci sono incertezze di carattere tecnico dovute al cambio dell'allenatore, dovute a tutta una serie di contingenze. Malatti ne ha anche parlato, no? Visto le oggi su Premium, per esempio, ha fatto un ragionamento sul fatto che non fosse la situazione ideale. Ovviamente non è l'ideale che abbia l'allenatore in piena estate. De Laurentiis difende il suo lavoro. Ci sono due situazioni completamente incomparabili, perché uno ha delle responsabilità dirette e l'altro no. Uno fa un discorso generale, quasi da persona informata sui fatti, per usare un gergo giuridico, e l'altro invece è, in qualche modo, è stato considerato da alcuni un, un imputato, no? Ovviamente sì, parlo il responsabile di quella che è stata la campagna del Napoli, sì. Non lo è, però. Però a maggior ragione, sai, tirarsi addosso delle pressioni può non essere una buona idea, anche se a me piace, ripeto, sono d'accordo con Giovanni Capuano, mi piace sentire un De Laurentiis battagliero. Sì, sì, voglio sapere se piace anche a Walter Novellino, che saluto. Ciao, Walter. Ciao. Meglio De Laurentiis, che dice: ma quanto siamo belli, o Moratti che dice: a me piace più Moratti. Ah, sì? Meglio spegnere i fari, fari spenti, tranquillo, perché l'Inter è una signore squadra. Secondo me, ecco, l'unica incertezza è ovvio, è quello che sta un attimino seduto, perché non sa, non conosce ancora forse il campionato italiano, ma sono convinto che noi quando dobbiamo andare all'estero dobbiamo imparare l'inglese, lui dovrebbe imparare l'italiano. Sì, e anche in fretta, però, mio caro, anche molto in fretta. Sennò si fa fatica, no? Fa fatica. Io sono convinto che la squadra è buona, la squadra è ovvio che non va in Juventus, perché sento sempre Allegri dire che ha fatto 5 innesti importanti tecnicamente, ha preso dei giocatori, perché lì c'è preso dei giocatori straordinari sotto il profilo tecnico, e la Juventus è ovvio che ci vorrà un po' di tempo per batterla. Il Napoli è una squadra che gioca bene, però io faccio il tifo per l'Inter. Ma ha ragione, e giro anche la domanda a Pier, ditemi cosa ne pensate, ha ragione De Laurentiis quando dice: a mercato finito, quindi Matuidi non è arrivato a Torino, tutto quello che sappiamo, guardate che a centrocampo ci siamo rinforzati più noi della Juve, considerato anche da dove partivamo. Forse se rimassi la battuta, il Napoli si è rinforzato addirittura troppo a centrocampo, che alla fine ha preso 3 giocatori e non è che giocherà l'anno prossimo col 2-8-1, no, tanto per sempre in 11 giocano. No, ecco, faccio una battuta ovviamente, però ha preso 3 giocatori, probabilmente poteva anche non prenderne 3, poteva anche prenderne 2 e magari andare a trovare un'alternativa in più lì davanti. Milik è bravo, è molto giovane, Gabbiadini sappiamo che insomma ha faticato parecchio anche in questo avvio di stagione, a un certo punto sembrava dovesse andare via, cioè secondo me le incognite sono altre. Sicuramente gli acquisti sono buoni, insomma Zielinski è un giocatore che conosciamo benissimo per la dimensione del nostro campionato, Diawara magari mi convince un pochino meno, nel senso che mi sembra ancora più un prospetto rispetto a Zielinski, mi sembra già ormai una certezza nell'immediato, ma Diawara comunque ha un grande potenziale, cioè sulla bontà dei giocatori presi non c'è da discutere, però ovviamente lo conosciamo meno, però insomma è un prospetto molto, molto interessante, molto stimolante, quindi che il Napoli abbia preso gente buona e lo stesso Milik sta dando risultanze positive, questo è indiscutibile. Sulla allocazione, diciamo, degli acquisti, forse qualche dubbio ce l'ho. Ecco. Anch'io ho dei dubbi sull'allocazione di questi centrocampisti. Zielinski dove lo metti? Zielinski è una mezza punta, non è un centrocampista, è un centrocampista un po' avanzato. Diawara l'ho visto poco e indubbiamente ha delle qualità. L'altro adesso non mi ricordo il nome, mi sembra. Non mi sembrano dei giocatori da facile collocazione a metà campo, e poi Sarri è uno che dà molta continuità, sono di giovani di prospettiva, giovani che sono importanti, però c'è sempre un però, perché si sono rinforzati discretamente, ecco, non mi sembra che siano. No, però l'anno scorso dicevamo tutti che il Napoli era poco profondo, che il Napoli non aveva qualità dietro gli 11 cavalieri di Sarri, no? Adesso vediamo anche, dovremmo vedere anche Sarri gestire una rosa ma più ampia. Ma quando sento De Laurentiis che dice che Sarri dovrebbe cambiare anche modulo, perché l'avete letto, no? Beh, gliel'ha scritto, si può fare anche il modulo con 2 centrocampisti, non necessariamente il 4-3-3. Sì, mi consente. Già l'anno scorso ti ricordi De Laurentiis aveva detto, gli ho mandato il pizzino dal vice allenatore. Esatto. Ma difatti lui è andato avanti. All'inizio ha cambiato, capiremo che gliel'ha detto. E poi dopo invece è andato dritto per la sua strada. Ma Walter Novellino, che riceve il tweet di De Laurentiis con scritto adesso si può giocare anche col centrocampo a 2, cosa risponderebbe? Bene. Ma ci lavoriamo su. Lui intenderebbe anche con un 4-2-3-1, ecco. Ma Sarri comunque, sai, non sarebbe forse sbagliato in partenza? Gli esterni ci sono, adesso ci sono i centrocampisti. Perché cambiare una cosa che funziona? Sì, vabbè, è che può stare sempre lì, però. Però è una squadra che sta andando bene, no? Al di là di questo, ma lui poi la sa leggere la partita, insomma, sa benissimo come metterla, insomma, la squadra. Indubbiamente un 4-2-3-1 non sarebbe neanche male, insomma. Sì, Amsic, ricordiamoci che preferisce fare la mezzala, non è un attaccante. Io forse stavo più dicendo, Zielinski può diventare. No, io stavo dicendo questo, anzi, lo mettiamo che più in tre. E con Benitez, vi ricordate che con Benitez ha fatto molta fatica in quel ruolo di trequartista, tra virgolette, nel 4-2-3-1. Anzi, ha fatto un po' fatica. Ecco, dove lo mettiamo? Come doppio mediano? Io non lo vedo molto bene come doppio mediano, perché Heinz è uno che si inserisce, uno da tre a centrocampo, e poi va molto dentro le linee, fanno parecchie rotazioni. Il bello del Napoli è che il centrocampo va sempre dentro le linee. E non so se anzi potrebbe fare questo con centrocampo a due, o se ne ha voglia, perché è rinato con Sarri proprio dimenticando Benitez e dimenticando i sacrifici che gli aveva imposto Benitez, quindi non so se è capace, non so neanche se ha voglia. Quello non, su questo aspetto non lo conosco, però devo dire che per arrivare alla Juventus ce ne vuole, insomma, ce ne vuole molto. Però consentetemi di dire che l'Inter, secondo me, se è messa bene sul campo, perché ci sono gli allenatori bravi in Italia, messa bene sul campo, sono convinto che l'Inter è una squadra che possa fare grande cose. Sì, manca giusto l'allenatore. Ma manca giusto l'allenatore in questo momento. No, noi ci chiedono, scusi, puoi venire in Inghilterra? Bene, lo sai l'inglese, ma so. Allora stai a casa. Magari in queste due settimane De Boer un po' di italiano ha cominciato anche a masticare. Perché sicuramente uno che ha fatto grandi. Ma poi è fondamentale, fondamentale. Ma è fondamentale il linguaggio, credo, no? Certo, grazie Walter. Ciao Walter, grazie a presto. Grazie Walter Novellino. Ma in qualsiasi lavoro che fai, il linguaggio è fondamentale. Figuriamoci un lavoro nel quale parli continuamente con i giocatori, devi dare istruzioni, devi dare motivazione. Ma questo, però, credo che sia nella logica delle cose. Sia fisiologico, nel senso, quando l'Inter l'ha preso, non è che De Boer avesse barato sulla sua proprietà di linguaggio. Quindi è ovvio che è una cosa, una situazione, è un problema che pian piano si sistemerà. Chiaramente ha dei tempi, adesso bisognerà vedere la velocità di apprendimento della lingua. E per quanto riguarda il Napoli, io penso che il modulo di partenza rimanga quello. Però credo che qualche alternativa in più quest'anno serva, perché in alcuni momenti della stagione il Napoli l'anno scorso è diventato una realtà un pochino prevedibile, pur nella bontà assoluta di quello che ha fatto. La sua forza e la sua debolezza. Questa. Sì, ma soprattutto ci vorrà più rotazione, nel senso che al di là del modulo, l'anno scorso secondo me ci sarà troppa differenza, e poi nel finale il Napoli un po' l'ha pagato tra i titolarissimi, tra il minutaggio dei titolarissimi e il minutaggio delle riserve, che in qualche caso secondo me è stata anche eccessiva, perché lascia perdere il caso di Higuaín Gabbiadini. Higuaín ha fatto delle cose incredibili, è chiaro che fosse titolare assoluto, ma per esempio tra Insigne e Mertens c'è stata una disparità di minuti che secondo me è eccessiva. Anche se Insigne certamente era il titolare di quella squadra, però Mertens ha giocato oggettivamente Si sono poco. Divisi in due la stagione. Caglione ha giocato sempre. E comunque sappiamo che da potenza tattica ha un valore di un certo tipo. Mancavano le alternative, sicuramente David Lopez era il primo centrocampista di riserva. Credo che quest'anno insomma ci sia più abbondanza, e questa abbondanza Sarri dovrà essere bravo a farla fruttare. Che poi è quello che gli ha detto De Laurentiis, Pier, secondo me. Ma questo è vero, questo è giusto, e devo dire la verità, non mi sembra nemmeno una grande ingerenza, no? Questa, da questo punto di vista il presidente ha pienamente il diritto di dire questa cosa, la può dire anche pubblicamente oltre che in privato, ci sta, questo ci sta, perché poi tre competizioni, un conto la Champions e un conto l'Europa League, insomma l'Europa League sappiamo banalmente che il Napoli in qualche caso non ha fatto neanche, non è andato neanche in ritiro nelle partite in casa, addirittura 0-5 quest'anno, cioè è un altro mondo. Sì, soprattutto nella prima fase c'è una grandissima differenza. Poi da febbraio in poi anche l'Europa League comincia a essere complicata. Tra l'altro ha un turno in più, l'Europa League da febbraio in poi. Do qualche aggiornamento, siamo alla mezz'ora del primo tempo, le partite che si stanno giocando, due risultati si sono sbloccati: la Danimarca avanti 1-0 sull'Armenia, la Polonia, ve l'avevamo già detto, è avanti 1-0 in Kazakistan. Poi questa sera c'è anche la Germania in trasferta contro la Norvegia. Pier, direi che ci sentiamo domani, anzi sì, ti senti col dottor Carlo. Sì, Pardo, sì, allora, a domani. Allora Pardo, dove sei Pardo? Io sono qui che aspetto. Io sto aspettando ancora il tuo SMS che però non arriva. Comunque tu devi sapere una cosa, Pardo. E comunque io in Italia ora come ora non ci torno più. È una mia decisione calcistica. È una mia decisione. Sì, però scrivili, dai, il messaggio, scrivili, per favore. Sì, senza, qui col telefono in mano, scrivimi tu, sta aspettando. Scrivimi tu. Ma no, ma qui col telefono in mano, poverino, sta aspettando. Siete tutti voi che mi cercate sempre. Sì. E adesso che tu hai detto che mi scrivi messaggio, non mi scrivi SMS. Ecco. Comunque io in Italia non torno. Va bene, invece questo l'abbiamo capito. Noi torniamo tra un paio di minuti con Paolo da Roma. Ciao Piera, domani. Scrivimi SMS. Qui si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Tutti convocati. Ha segnato anche la Lituania con la Slovenia 1-0, 33esimo minuto, finito il primo tempo. Invece in Serie B, prima partita di questa domenica, Entella 1, Avellino 0, gol di Masucci al 35esimo. E intanto c'è il raddoppio della Lituania che in 3 minuti ha messo in discesa la partita con la Slovenia. Lituania 2, Slovenia 0. C'è chi chiede quanti giocatori dell'Inter parlano italiano e quindi c'è un altro messaggio. Tony, ad esempio, con chi parla italiano De Boer? Ma non è solo il problema di parlare in italiano in spogliatoio o farsi capire dalla maggioranza della squadra, è il problema di essere pienamente calato all'interno della realtà in cui tu lavori, devi dare dei risultati, saper magari anche interpretare cose che ad esempio a Verona ha dimostrato di non essere in grado in questo momento di interpretare. 800 24 00 24. Paolo, prima di tutto buonasera a tutti e grazie. Buonasera a te. Vi ascoltavo prima quando parlavate della classica supremazia della Juventus che ormai mette timore o paura o insomma dà questa sensazione e percezione a tutti, anche al presidente Moratti, e dopo tutto quello che lui ha fatto. Il presidente Moratti e un po' tutti noi ormai ci siamo resi conto che la differenza non è più solamente nel comprare grandi giocatori o numeri uno, perché poi bisogna anche assimilare la squadra e farla giocare. Il problema grande, credo, di tante squadre italiane, parlo anche di squadre di livello, e si vede soprattutto come grande esempio nel Milan, che la struttura societaria è quella, il fattore più importante, cioè coloro che riescono a fare un'alchimia all'interno di un'azienda, perché ormai di aziende si tratta, non possiamo tirarci indietro, dove la passione è ancora uno spazio un po' piccolino ormai. Però queste aziende hanno la capacità, e la Juventus che io ho toccato con mano, ha la capacità nel momento in cui tu varchi la soglia, cioè entri all'interno, di capire che qui sei per vincere. È una struttura che ti offre la possibilità di esprimere il tuo 100% e soprattutto ti mette nella condizione di esprimerlo, cosa che non è facile in altre società di calcio. Quindi ormai la supremazia è un dato di fatto, non parliamo più di sudditanza psicologica. Va accettato, secondo me, nello sport dipende. Nello sport si vive, si sogna, si lavora sempre per battere quello che sta sopra. E questo vale dai 100 metri con Bolt alla supremazia della Juventus nel campionato italiano. Però Paolo ha ragione, nel senso che la Juventus è in questo momento la società meglio organizzata. Possiamo fare mille discorsi lunghissimi su stati di proprietà, sul fatto che comunque si è ristrutturata, ricostruita nel tempo. Possiamo fare lunghi discorsi sul fatturato, cosa di cui sentiremo parlare praticamente ogni domenica. Possiamo discutere di tutte queste cose. Al momento attuale la Juventus è la società strutturata meglio e questo paga i suoi frutti, i suoi dividendi. Ha ragione Capuano quando dice che però un'aria di rassegnazione di questo tipo dopo i primi due trailer, perché questo sono le prime due giornate di agosto del campionato, insomma è anche difficile da poi lo sappiamo tutti che la Juventus è strafavorita, l'abbiamo detto anche in tempi non sospetti, questo campionato lo può solo perdere lei, però ad esempio a me è piaciuto tanto Montella degli ultimi due giorni. Vai male a scuola, a me puoi dirlo senza vergognarti. Le pagelle che sono state date dalle testate che appunto il giorno seguente alla fine del mercato hanno dato i loro voti. Il Gazzetta dello Sport è 4,5, Corriere dello Sport 5, Tutto Sport 5, La Stampa altrettanto, QN 4,5, Libero 5. Si va dal 4,5 al 5. Sono stati ingenerosi? Io questo, se posso chiedere una cortesia, se me la potete stampare così la faccio vedere ai calciatori, perché credo che debbano essere... Può essere motivante? Motivante, moltissimo, che io credo che valgano molto di più. Vai male a scuola. Beh, non male l'approccio di Montella. Intanto saluto Nando Orsi. Ciao Nando. Ciao. Ciao. Che ieri ha visto il Milan in amichevole a Bournemouth, vittoria 2-1. C'erano tutti nuovi, però poi facciamo la pagellina dei nuovi ieri, sì, con Sosa nella nuova posizione, Pasalic e via discorrendo. Però a proposito di approccio, a me non è dispiaciuto e non dispiace l'approccio di Montella, che è quello che ha avuto meno di tutti dal mercato. Che è anche l'unica squadra tra quelle che abbiamo citato che assolutamente non è competitiva per alcunché che non sia un'onesta corsa all'Europa League. Perché c'è qualche problema di collegamento, allora lo recuperiamo subito, Nando Orsi. Sì, per carità, non competitiva per nulla, ma a Montella verranno chiesti comunque dei risultati esattamente come a tutti gli altri. Ma i risultati non li può dare con questa squadra. Poi bravo, coraggioso nel dire quello che ha detto, però bisogna anche essere realisti. E se Moratti dice che l'Inter non è da corsa per alcunché, che la Juventus vincerà il campionato in carrozza, può aver ragione, però non vedo perché si debba chiedere qualcosa a Montella. È chiaro che il Milan sta diversi gradini sotto non solo la Juventus, ma anche l'Inter, la Roma, il Napoli, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, eccetera, eccetera, no, perché poi, vabbè, diciamo che sta sullo stesso piano della Fiorentina. Io credo che questa luna di miele in cui non viene messa pressione sul Milan finirà presto. Intanto raddoppio della Polonia su rigore Lewandowski, abbiamo recuperato Nando Orsi. Eccomi, Nando. Sì, eccolo. No, dicevo che secondo me è il valore aggiunto del Milan, perché non ha cambiato tanto, non ha aggiunto neanche giocatori straordinari, però si va a vedere gli obiettivi, no, che il Milan ha, sono gli obiettivi quelli che ha detto l'allenatore di una squadra che deve ritornare in Europa. E quindi se vedo le squadre con le quali deve lottare, vedo la Fiorentina, vedo la Lazio, vedo il Sassuolo, il Milan se la può giocare benissimo. Quindi poi ho visto oggi che praticamente i cinesi cominceranno a dare i soldi a settembre, quindi penso che a gennaio ci possa essere anche un mercato importante, anche se a gennaio non so che cosa puoi trovare. Però ripeto, mi sembra una squadra che abbia dei giocatori di qualità. La qualità non manca, perché i Sosa, i Pasalic, Niang, Suso sono giocatori di qualità. È ovvio, sì, che lì in mezzo al campo quello che serviva forse un giocatore di interdizione un po' più fisico davanti alla difesa, forse serviva un difensore, però insomma il Milan ha fatto mercato con quello che poteva. Certo. Terza fascia, la prima è tutta occupata dalla Juventus, la seconda delle tre che abbiamo detto. Posso dare una mia opinione su quello che stavo sentendo prima, perché è tutto giusto che la Juventus è strafavorita e tutto quanto. Però io vi volevo ricordare che 5 anni fa, quando la Juventus ha vinto il primo scudetto, era il Milan strafavorito. Il Milan era strafavorito, e il Milan, la Juventus, la Roma, il Napoli, l'Inter erano tutti sullo stesso piano. Poi dopo la Juventus ha vinto lo scudetto e ha continuato. Le altre l'abbiamo viste in che stato sono. Quindi è una questione sia di programmazione ma anche di idee. E quindi se vado a vedere la formazione della Juventus di 6 anni fa, lo sapete chi aveva in difesa? Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini. La Roma ha cambiato Benatia, Marquinhos, Romagnoli. Sì, ha usato la difesa come un bancomat. Esatto, come un bancomat. E il Napoli ci ha messo 4 anni per essere costruito, mentre è stato ricostruito. L'Inter veniva dalla fine del triplete, però aveva anche giocatori di qualità. La Roma uguale. Quindi secondo me, al di là di tutto, è stata una questione anche di programmazioni e di idee, perché così che poi dopo si va. A distanza di 5 anni la Juventus è quella che è, e le altre fanno fatica. Sì, anche la Juventus ci ha messo un po' per essere ricostruita. Beh, insomma, ci ha messo il giusto, ci ha messo il giusto per essere costruita. Mi dai un po' il pagellino ieri dei nuovi? Ieri abbiamo visto questo primo Milan, primo nel senso che per la prima volta erano dentro quasi tutti i nuovi acquisti. Sosa, la Padula, Vangioni, Pasalic, chi è che ti è piaciuto e chi invece ti ha un po' così lasciato perplesso? Allora, partiamo da quelli che mi sono piaciuti. Mi è piaciuto, a parte se il migliore in campo è stato Paletta, secondo me. Sì. Paletta e Suso sono stati i migliori in campo. Ma se dobbiamo andare a vedere se hanno convinto o meno i nuovi, Suso direi che la sufficienza piena, perché si è adattato in quel ruolo, si vede che ha mezzi tecnici. Suso è un bel giocatore. No, Suso, scusami, scusami, dico Sosa. Sosa. No, perché qui c'è Sosa e Suso, capito? Quindi... Beh, Suso è un bel giocatore lo stesso. Sì, no, Suso è un gran giocatore, è un gran, perché tra l'altro a Genova gli ha fatto bene stare, perché è diventato anche un po', come si dice, un po' cattivo, calcisticamente parlando. Quindi ha cominciato mentalmente anche a giocare in maniera differente e capire il campione italiano. Sosa, che è un giocatore che secondo me è più bravo dalla tre quarti in su, perché è il piedino giusto, però lì davanti, se tu ci lavori, si può anche adattare. È ovvio che è difficile, perché lui l'interdizione ce n'ha poca, però ha fatto delle buone cose quando ha preso palla, due o tre lanci buoni, ha fatto anche un paio di interdizioni importanti. È ovvio che poi dopo deve trovare i tempi giusti, perché quella è una posizione difficile, cioè spalle alla porta, spalle alla porta avversaria, secondo me, lui deve dar via subito la palla. Invece un paio di volte pensava stesse fuori dal limite della rigore dell'altra squadra, capito? Sì. Delle volte non pensi che stai a difendere invece che attaccare, quindi devi lavorare. Però secondo me è un giocatore che ha qualità e soprattutto ha esperienza, quindi lì lavorando ci si può fare. E Pasalic? Pasalic ha giocato come interno di centrocampo, devo dire non ha fatto tantissimo, sembra un po' timido, però viene anche da febbraio che non gioca, quindi problemi alla schiena, problemi fisici, però io penso che quello non sia il suo ruolo. Ecco, io penso che l'intermedio di centrocampo penso che faccia fatica, perché lì lui non fa né la profondità per andare in porta, né fa l'interdizione e la costruzione di gioco, quindi mi sembra un po' ibrido ancora lì. Mentre Montella ha detto che può giocare con un centrocampo a due è bravo, gli metti un interpretatore vicino, lui può essere bravo. La Padula ha giocato un po' esterno, un po' si è alternato con Luis Adriano, non ha avuto grandissime possibilità di mettersi in mostra, però almeno ha sudato, cioè ha corso per tutto il campo come un attannato, perché insomma si voleva mettere in evidenza. Anche perché il ruolo di prima punta, ora che è rimasto pazzo, c'è il rischio che non lo veda. È proprio di Bacca il ruolo di prima punta, anche se poi Montella li può alternare, nel senso che può anche farlo, però insomma Bacca non si può assolutamente cambiare. Meglio pensare a provare a riciclarsi, magari un po' più sull'esterno, un po' più di corsa. È un segno di intelligenza e di umiltà anche questa. Sì, è vero, no, vabbè, ma lui... sa benissimo che viene dalla Serie B e che quindi è ovvio che è inserito in una squadra importante come il Milan, è ovvio che sa che deve, se non è umile gioca poco. Grazie. Nando, ciao Nando, a presto, arrivederci ragazzi, ciao. Grazie Nando Orsi, chiedo un istante di pazienza a Nazareno da Ascoli, c'è il traffico, torniamo subito. È la vita, chi vince è un bel ragazzo e chi perde non vi dico che cosa. Tutti convocati. Tanto San Marino è sotto 1-0 contro l'Azerbaigian. Nazareno da Ascoli. Nazareno, buonasera. Buonasera a te. Senti, io volevo chiedere come mai quando parlate dell'Inter, io ne sono tifoso da 65 anni, non dico che siete sullo sfottò, ma siete molto duri, molto non comprendete, ma De Borre è arrivato 10 agosto, sì, o parla italiano o parla olandese, è arrivato il 10 agosto, dateci un attimo il tempo. No, ma noi in Nazareno ragionavamo su quello che ha detto Moratti, che tra l'altro ha detto anche questo, cioè che insomma che bisogna dare un po' di tempo a De Borre. E allo stesso tempo che il cambio di Mancini è stato fatto probabilmente fuori tempo massimo. Non l'abbiamo detto noi, ma l'ha detto l'ex presidentissimo dell'Inter, che ripeto non ha più alcun ruolo in società, ma è una voce molto accreditata all'interno dell'interismo. Ma sei fiducioso, Nazareno, per questa stagione dell'Inter? Io dico che anche Moratti, al quale dobbiamo eterna riconoscenza, qualche volta pure... potrebbe parlare, è lui che è consigliere, e perché non ha traghettato questo passaggio, se era necessario da un allenatore a un altro. Oggi criticare è facile. Capito, non è più presidente, quindi non, ripeto, non può traghettare alcunché se non la sua barca da un porto all'altro. Il discorso è che l'ascoltatore dice, e ha ragione, che a De Boer può servire il tempo necessario per ambientarsi, poi dopo questo tempo necessario e fisiologico per ambientarsi leggiamo la classifica e non so a quale... A che punto potrà essere l'Inter? Facendo finta di dimenticare le prime due giornate, quando si riparte l'Inter va a Pescara ed è una partita insidiosa e poi alla Juve. E poi dopo quattro partite comunque la classifica comincerà ad avere un peso e rischia di avere un peso se è una classifica negativa. Grazie comunque. A proposito, chissà chi avrà consigliato Ballardini e Zamparini. Saluto Salvatore Aronica. Ciao Salvatore. Ciao Salvatore. Buonasera a tutti. Secondo te chi l'ha consigliato Ballardini? Visto che in questo caso sembra non sia stato esonerato da Zamparini, anche se c'è un giallo, perché poi Zamparini in un'intervista a Repubblica dice l'affare l'ha fatto lui che adesso sta a casa e prende i soldi, cosa che non succede se ti dimetti, ma chiariremo anche questo giallo. Salvatore. Ma io penso che ormai è sempre la solita storia, nel senso che gli allenatori e i direttori sportivi a Palermo si avvicendano come i calciatori, sempre con la stessa frequenza. Ma molto di più, molto di più. molto di più. Se fai il calciatore, a sei mesi più o meno stai lì. Ma ti dico che io... Lo so. Ancora diciamo percepisco ancora gli emolumenti, ma ho giocato solo sei mesi ed è tre anni e mezzo che sto fermo a casa, quindi ti lascio immaginare i contratti di Zamparini. No, poi so che aveva avuto grandi promesse, fascia di capitano, uomo simbolo, sì, comunque sì, uomo cose simbolo, partire dalla B, poi tutto è cambiato al momento in cui lo Monaco è andato via, è arrivato Perinetti, poi a giugno sono cambiate le situazioni e mi sono trovato io con contratto, ma di fatto fuori rosa. Però a parte quello che fa parte purtroppo del nostro ambiente, c'è da dire che Ballardini ha aspettato la fine del mercato, ha capito che la rosa che aveva fornito il presidente non era all'altezza, non era congruo alle aspettative che probabilmente aveva il tecnico, e ha deciso di penso di farsi esonerare, perché se l'allenatore ti chiama e dice presidente non sono già d'accordo con lei, Zamparini ci pensa neanche due, una volta, e ti manda via. Sì, quindi poi capiremo se tecnicamente facile, è un esonero o è una lettera di dimissione. Mi sembra, Salvatore, che tu abbia un giudizio abbastanza simile a quello di Ballardini sul Palermo di quest'anno. Sì, che dica Zamparini che il Palermo sia tre volte più forte del Crotone, credo che sia una mancanza di rispetto, visto una società che ha operato con sicuramente meno disponibilità economiche, ma che è riuscita a raggiungere la Serie A con grandi sacrifici e grande abnegazione da parte dei presidenti, che tra l'altro conosco perché ho avuto modo di giocare 4 anni, il direttore e l'allenatore. Credo che Palermo abbia allestito una squadra. L'altro giorno leggevo che hanno sostituito Mares, cioè numericamente ha preso più giocatori, ma bisogna vedere anche la qualità, perché se levi Sorrentino, se levi Girardino, se levi Maresca e poi comunque arriva gente più o meno sconosciuta, non è il numero che ti crea una rosa, ma bensì la qualità. E credo che a Ballardini questo non sia andato giù. Sì, insomma dovrà fare un'impresa De Zerbi per provare a salvarsi. De Zerbi, che però sarà da seguire con grande curiosità, è uno degli allenatori emergenti, e spesso Zamparini ha anche avuto comunque la vista lunga nell'andare a far fare esperienza ad allenatori che poi hanno avuto una buona carriera. Giovanni, beh, insomma, Zaccheroni è iniziato con Zamparini, Prandelli ha avuto un passaggio importante con Zamparini, Guidolin è stato un allenatore che a Palermo ha fatto esperienza per n anni, capita anche di pescare un allenatore che poi fa carriera. Sta nella legge dei grandi numeri, Osserveremo con curiosità De Zerbi. Grazie Salvatore. Ciao Salvatore. Grazie a voi, ciao. Buon lavoro. Ciao. Grazie Salvatore. Aronica, c'è Riccardo da Bolzano, ma prima vi voglio raccontare con Dario Ricci che ci ha raggiunto una storia che rimbalza da Monza, dall'autodromo di Monza, ma porta diritti a Rio de Janeiro. Eh sì, perché oggi è l'unica notizia, cari ragazzi. Ti ho portato un biglietto? Sì, beh, no, ma in realtà è l'unica notizia, perché non è che ci aspettavamo una notizia della Ferrari e non c'è stata, perché no. Tutto è andato, a parte quel brividino all'inizio. Beh, l'unica notizia arriva da Monza e riguarda la lotta, riguarda il nostro medagliere. Perché? Perché nel paddock, come sapete, oggi c'era anche sfilata un po' di medaglie olimpiche, Niccolò Campriani con la fidanzata Petra Zublasig, a un certo punto è arrivato Fabio Basile, la nostra 200ª medaglia, con Frank Chamizzo il bronzo nella lotta libera, quello arrabbiato, bravo, esattamente, e c'aveva questo bronzo che gli sfrigolava in mano, insomma, tant'è che mi sono avvicinato e ho detto: ciao Frank, bella, bella, bella medaglia, e dice: ma no no, aspetta, devo dirti una cosa, questa potrebbe cambiare, dicci un po' questa storia. Insomma, per farvela breve, sembra proprio, e in giornata anche media stranieri hanno accreditato questa ipotesi, che nella finale che c'è stata tra Lazzero Asgarov, quello che vi ricordate batté Chamizzo con quel verdetto discusso e discutibile, e Ramonov il russo, che poi ha vinto l'oro con un netto 4-0 in finale, ebbene Asgarov sia risultato positivo al controllo antidoping anche lui. Quindi Chamizzo, che ha avuto l'ufficialità di questa notizia dalla WADA, gli brillavano gli occhi, perché quel bronzo potrebbe diventare almeno argento. Quindi da Monza ci arriva una medaglia un pochino più pregiata in attesa dell'ufficialità per quanto riguarda la nostra Olimpiade. Quindi sempre 28 restano, ma con un argento in più a migliorare, sì, ulteriormente mettiamo, il bottino. La cosa ironica, cambi colore ufficialmente. Ecco, la cosa ironica è che se in una finale tra Lazzero e il russo, il positivo è Lazzero. Cioè, no, dico. Insomma, noi ci abituiamo assolutamente a tutto. Grazie Dario. Grazie, Dario. Abbiamo un minutino. Riccardo da Bolzano. Riccardo. Sì, niente. Buonasera Eccoci. A tutti. Grazie per la chiamata. Nessuno, tutti parlano di Inter, Napoli, io sono juventino e ho paura soprattutto del Sassuolo, sinceramente, perché ha un anno in più di esperienza, un allenatore capace, una squadra giovane e... E non sapete italiano. Più dove trovare i pericoli. No, ma non sapete più dove il Sassuolo vedere è una grande, ma credo non per lo Scudetto. No, non per lo Scudetto, sicuramente, però è in grado di lottare, secondo me, quasi con Napoli... Napoli e Roma. No, secondo me più con Milan e con Fiorentina e quella di secondo qualche me è già sopra, io sono d'accordo con Riccardo. Secondo me dobbiamo abituarci a considerare in questa fase storica Sassuolo come una grande in campo del calcio italiano. E insomma, magari non per lo scudetto, forse non con il Napoli. Però io credo che se la stagione si mette in una certa maniera, magari il Sassuolo a un certo punto un pensierino al terzo posto può anche farlo. Del resto l'ha detto Squinzia di Francesco. Grazie comunque Riccardo, abbiamo finito, sì. Noi ci fermiamo. Io ringrazio Gianmarco Ferronato e Filippo Aureggi in regia, il nostro Andro Mercu. A me non avete mandato ancora nessuno SMS. Adesso ti scriviamo. Io non torno in Italia. Ringrazio anche Giovanni Melchiori che con oggi poi va in vacanza, è stato presenza costante e assolutamente preziosa. È l'unico serio in questa lunghissima e difficile estate che abbiamo attraversato tra l'Europeo e le Olimpiadi. Grazie Giovanni. Noi torniamo domenica prossima dalle 17 alle 19. Io non torno. Non ti vogliamo. Domani dopo il GR delle 14 torna al format di un'ora e mezza. Siete bravi a odiare. Ciao. Basta. Ciao. Buonanotte, vado a riposare perché devo dire la verità, sono cotto stasera.